scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, anche oggi con voi uno degli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri e della cultura, gli incontri di Voci in Scena. L'intervista di oggi è di Elisabetta Fiorito. Giovanissima, è già una realtà consolidata del panorama internazionale. Daniele Rustioni si è diplomato al Conservatorio Verdi di Milano, si è perfezionato all'Accademia Musicale Chiaggiana con Gianluigi Gelmetti. Nel 2010 ha debuttato al Teatro alla Scala, dove è tornato con La Bohème, Un ballo in maschera e Il Trovatore. Dirige i maggiori teatri e festival italiani. Nel 2013 è stato nominato direttore musicale del Petruzzelli. Ora dirige La Bohème a Caracalla. Rosa Feola inizia gli studi diplomandosi in canto con lode al Conservatorio Martucci di Salerno. Debutta nel ruolo di Corinna all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Interpreta Serafina nel Campanello, Adina nell'Elisir d'Amore, Susanna nelle Nozze di Figaro. Adesso a 28 anni è Musetta. Una prova difficile in una boemma alle Terme di Caracalla, andata in scena con il solo accompagnamento del pianoforte per uno sciopero degli orchestrali. Siamo qui a Caracalla in questo magnifico scenario per presentare una delle opere che il Teatro di Roma mette in scena questa estate, La Bohème di Giacomo Puccini, un'opera che comunque è molto difficile da rappresentare in uno scenario come Caracalla, perché da Parigi durante l'inverno ci dobbiamo spostare nel pieno dell'estate romana. Sul palco a dirigere il tutto il maestro Daniele Rustioni, buongiorno. Buongiorno. E con noi anche una delle protagoniste, abbiamo scelto la coprotagonista, la donna un po' frivola della Bohème, nel ruolo di Musetta, Rosa Feola. Buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo subito. Che difficoltà ci sono per un'opera come quella di Puccini per far suonare e per far cantare quest'opera all'aperto? Ma adesso, prima rispondo tralasciando all'aperto. Di solito si dice sempre la Bohème è una delle opere più rappresentate, insieme forse al Barbiere di Siviglia e la Traviata. E di solito si dice sempre, anche i primi giorni, no? Anche con Rosa dicevamo, non si studia, si sa, non si studia. In realtà, essendo un capolavoro, è una di quelle opere che apri la partitura e scopri sempre tantissime cose. Penso che poi Rosa ci dirà, anche per la linea vocale, per quanto riguarda poi le emozioni, l'andare a scavare dietro il vissuto della Musetta. Però ad esempio stiamo parlando della Musetta, si dice il personaggio frivolo. Musetta nel quarto atto ha una preghiera che rivela un animo e una sensibilità che è, secondo me, all'opposto della coquette con cui si vuole dare il cliché della Musetta. Per quanto riguarda la parte musicale, direttore d'orchestra, io sono un giovane direttore, quindi magari farà sorridere tutti sentire, insomma, è la sesta. Quanti anni ha? Possiamo chiedere? Ne ho 31, ne dimostro meno, mi dicono. Però sì, appunto, giovanissimo però. Però è la mia sesta produzione, quindi ne ho dirette, penso, tante, e le posso assicurare che è un'opera che non si finisce mai di imparare. Fa mettere in gioco gli interpreti, rappresenta la fine della giovinezza. Non solo per la scena finale, appunto, la morte di Mimì mette davanti tutto questo gruppo di giovani, lo mette davanti alla morte per la prima volta, e tutti da quel momento si trasformano, e si può immaginare un La Bohème bis in cui tutti si trasfigurano completamente, no? da questa esperienza. D'altra parte, naturalmente, vengono la Bohème perché c'è il secondo quadro, c'è il quartiere latino, ci sono le scene di spensieratezza e gaiezza del primo e del quarto quadro nella soffitta, c'è l'amore, c'è tutto. È un'opera che abbraccia tutti i sentimenti umani, e da direttore d'orchestra queste cose passano ancora di più se gli interpreti li vivono veramente questi momenti. Quindi è un'opera eterogenea, è un'opera che ti sconquassa dentro se la interpreti nel modo giusto. Ma a 31 anni che effetto fa trovarsi a dirigere un'opera a Caracalla, e poi così giovane a dirigere un'opera? Che carriera, quanto studio, quante ore di studio? Ma questo non lo so, dipende, so solo che sono veramente felice e onorato di avere delle opportunità così uniche. Ricordiamo che però da direttore d'opera io da solo non vado da nessuna parte, anzi ricordiamo che il direttore è l'unico musicista che non ha il contatto diretto col suono, quindi, e poi ricordo, se dico sempre, ci può anche essere un genio, e non è questo il caso, come ci può essere Kleiber in buca, ma senza i cantanti fare l'opera non si va da nessuna parte, e quindi ho la fortuna, sì, di dirigere questa orchestra, questo coro a Caracalla, e in questa cornice meravigliosa, questo titolo, però ho un cast meraviglioso. E fra l'altro adesso parliamo di Musetta, di Musetta. Adesso posso dire una cosa, che è l'unica con cui ho avuto l'unica in questo caso con cui ho avuto il piacere di fare musica, e quindi ritrovarla qui per me è una grandissima gioia. Allora, Rosa Feora, che cosa succede a questo personaggio? Si trasforma, vediamo una Musetta capricciosa, no? Soprattutto nel primo atto, una Musetta che litiga con Marcello, insomma una donna sicuramente l'anti-Mimì, perché è una donna intraprendente. E che difficoltà ci sono a sostenere questo ruolo, sia dal punto di vista recitativo, sia dal punto di vista proprio invece canoro? Dal punto di vista registico sicuramente diversissima Musetta dal secondo al terzo al quarto atto, perché mentre cerca di possedere Marcello, perché lo seduce in ogni modo possibile, dall'aggressività allo sguardo malizioso alla gamba di fuori, a qualsiasi cosa di effetto fisico, di forza, eccetera eccetera, arriva all'ultimo atto in cui la presenza della morte, e quindi della condizione umana, la trasforma in una dolcezza e serietà diversa, una Musetta completamente diversa. Ed è in quel momento che lei e Marcello decidono di non farsi più guerra, perché c'è un problema più grande dei loro problemi e magari non ne vale la pena. Quanti anni ha, posso chiederlo? 28. Quindi giovanissima, una Musetta che avrebbe sicuramente rappresentato quello che voleva scrivere Puccini, no? In quest'opera. E che effetto le fa essere qui a Caracalla? Beh, qui a Caracalla già sapevo che avrei vissuto delle emozioni fantastiche dalle varie presenze del direttore d'orchestra che già conoscevo, come abbiamo detto prima, a Davide Livermore, che è un regista fantastico e che mi ha chiesto, devo dire, tantissime cose in questi giorni che mi hanno messo un po' in crisi, ma mi hanno fatto anche molto contenta. Lo scenario, sicuramente dai brividi già dal primo atto in cui Rodolfo dice: e qui la luna l'abbiamo vicina, ieri davvero c'era vicina la luna e l'abbiamo vista, me la sono sentita proprio addosso, è stato una bellissima emozione. È un evento importante per me, perché è la prima volta che canto all'aperto, è la prima volta che provo a cantare con un microfono. Io ho avuto qualche problema, perché bisogna ambientarsi un po', ascoltare e non ascoltarsi, forse è meglio. Voi provate, cantate nei teatri senza microfono, e comunque oramai i microfoni sono posizionati distanti, perché ci sono, però l'opera è nata senza microfono, ovviamente. Assolutamente, io ieri ero convintissima di aver fatto un effetto speciale sulla preghiera che dicevamo prima, usando la mia voce con un sussurro. Quando sono andata tutta orgogliosa dal maestro a domandargli allora com'era, lui mi ha detto: non si sentiva niente. Quindi insomma ci si troverà in questo contesto con i microfoni, vestita per un inverno parigino in un'estate romana. Sì, ma ieri faceva freddissimo. Noi sì, diciamo di essere in estate, ma qui a Caracalla si sfata il mito dell'estate, fa freddissimo, e quindi ero contentissima di aver velluto e sciarpe poni addosso, perché forse l'ha chiesto Livermore, l'ha chiesto Davide. Faceva talmente freddo, io non mi ero portato niente, mi sono dovuto mettere la giacca di Marcello per dirigere, ero in costume anch'io. Ah, era in costume anche lei. Tutto questo praticamente fa sì che finalmente Caracalla, no, scelga anche un'opera classica di repertorio. Ma quello che le voglio chiedere, secondo lei, io lo faccio sempre questa domanda riguardo a Puccini, è stato poi l'ultimo grande compositore, si può dire? Sì e no. Sicuramente Puccini è il compositore d'opera in generale, non dico del repertorio italiano, di tutto il repertorio operistico, forse è il compositore più immediato. E nel dire questo, alcuni critici hanno utilizzato forse questa cosa per appunto criticarlo, dicendo: ah, alcune volte sembra un musical di lusso. no? Per alcune cose, sia nella Bohème che forse in Fanciulla del West, insomma, così. In realtà scrive veramente per farci attorcigliare le budella, perché quello che fa, lui gioca con i nostri sentimenti in una maniera incredibile, non c'è niente da fare, puoi ascoltare 100 volte lo stesso passaggio e scoppi a piangere subito e non c'è niente da fare. In questo maestro, forse da questo punto di vista, forse è stato il più grande, però c'è anche tanta altra musica. Io sicuramente difendo a spada tratta gli autori contemporanei, e c'è anche molto altro repertorio tedesco. Andando avanti si trovano i vari Strauss, che sono dei giganti, quindi sì, sono d'accordo in parte con quello che mi ha suggerito lei, però con qualche riserva anche. E per una cantante lirica? A proposito della musica, infatti, volevo aggiungere che il maestro Rustioni ha letto in una maniera così approfondita lo spartito che io, che credevo di aver studiato l'aria di Musetta in una maniera abbastanza, non lo so, sì, mi ha fatto scoprire dei portamenti, delle dinamiche che non avevo visto, ma comunque che erano scritte, che donano al personaggio una sensualità invece ancora maggiore. Ecco, dallo spartito davvero ogni giorno si può aggiungere qualcosa, si può scoprire qualcosa di nuovo. Allora ringraziamo il direttore d'orchestra di questa magnifica Bohème, musica di Giacomo Puccini, qui in scena a Caracalla per quest'estate, e Rosa Feola nel ruolo di Musetta, due giovanissimi, abbiamo sentito 31 anni e 28 anni, giovanissimi ed italiani, per ricordare che la lirica è il nostro fiore all'occhiello. Grazie. Grazie. Grazie. Ed è tutto per la puntata di oggi di Voci in Scena, l'appuntamento è domani alla stessa ora.